stelle d'oro danzano nel cielo, la luna su dai monti lenta sale, che bella notte per fantasticare, se tu fossi innamorata di me. Il tempo sta scorrendo lentamente, con l'alba questa notte finirà, ed io non sarei solo qui a sognare, se tu fossi innamorata di me. Il vento sussurrando dolcemente raccoglie al volo tutti i miei pensieri e corre a raccontare al mondo intero che sono innamorato di te. Le stelle d'oro danzano nel cielo, la luna su dai monti lenta sale, che bella notte per fantasticare, se tu fossi innamorata di me. Pensieri e corre a raccontare al mondo intero che sono innamorato di te. Le stelle d'oro danzano nel cielo, la luna su dai monti lenta sale, che bella notte per fantasticare, se tu fossi innamorata di me, se tu fossi innamorata di me.